Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata e soprattutto buon Natale, cari radioascoltatori. Manca poco al pranzo di Natale, quindi cominciamo a parlare appunto di prodotti. Cominceremo a parlare di panettone. Qui ho qui davanti a me un panettone tradizionale e uno a famolo strano. Cosa significa famolo strano? Perché io ho posto questo interrogativo su questa trasmissione? Perché ormai il panettone è veramente diventato importante, ormai in ogni regione d'Italia ci sono pasticcerie che lo producono, ma c'è anche una grande innovazione. C'è una grande innovazione perché in molti territori vengono usati dei prodotti appunto del territorio per ottenere un panettone completamente diverso. Allora porremo questo interrogativo oggi: panettone tradizionale o famolo strano? Ma prima di iniziare questa puntata, questo giro per parlare con molti pasticceri che ci parleranno appunto del loro panettone, io devo fare un annuncio. Radio 24 quest'anno ha deciso di fare un regalo agli ascoltatori. Nel corso di questa puntata vi spiegherò di che cosa si tratta e come riceverlo, per cui rimanete con noi fino all'ultima parola e scoprirete appunto quale sarà il regalo. E allora cominciamo a parlare di panettone, cominciamo a fare gli auguri di Buon Natale innanzitutto al nostro primo ospite, che è Massimiliano Alaimo, chef delle Calandre ma anche un grande pasticcere. Ciao Massimiliano. Eccolo qua, buongiorno a tutti e Buon Natale in anticipo. Senti Massimiliano, buongiorno. Ma tu lo fai strano? Dipende, no, dal punto di vista dei panettoni per me è diventato ormai consuetudine. Sono già 2 anni che noi tutti i nostri lievitati li serviamo con olio extravergine di oliva, per cui abbiamo fatto questa ricerca dove non trascuriamo il sapore ma diamo una profondità olfattiva e gustativa superiore dal nostro punto di vista, grande digeribilità e grande sapore. Tu fai anche delle focacce, sì, molto sì, particolari, sì. Perché dalle vostre parti, in Veneto, la focaccia è l'equivalente della veneziana, se non erro. Sì, che poi noi la chiamiamo anche fugassa. Ah, ecco. Ed è questa espressione dialettale, sembra quasi richiamare un sistema di fruizione, proprio il fatto di spezzarla con le mani. A me piace e vorrei che si parlasse anche di fruizione di questi lievitati, perché c'è questa idea di condivisione e di sporcarsi le mani, di ungerle e di poi trattenere questo profumo che non è soltanto in bocca ma deve rivestire un po' tutte le nostre passioni. Ecco, dimmi la verità, tu lo mangi per Natale, lo mangi tradizionale o mangi il tuo panettone all'olio? Io solitamente uso grande formato, dal chilo ai 3 chili, e poi all'olio extravergine. Per me è tradizionale. Ecco, io sono per i 5 kg addirittura, pensa a te. Tu sei un privilegiato, ma insomma, sì. Io negli anni arriverò. Sì, 5 kg. No, volevo tornare alla fugazza. Tu fai una fugazza, sì, al bicocca e zenzero, quindi bicocca e zenzero, facciamo zafferano e liquirizia, che è un nostro classico, marasche e cioccolato, olive candite, olio extravergine di oliva. Albicocche e caffè sarà la novità di quest'anno. Ecco, ma prego. Non ne facciamo più tipi, dico. Finisco qui l'elenco perché sennò ti tratterrei per troppo tempo. Divertiamo con le focacce. No. Sono dei grandi contenitori aromatici. Ecco, dicevo, ma il consumatore il tradizionale lo chiede ancora, sanno che tu fai qualcosa di diverso, ma lo continua a chiedere il tradizionale, il panettone tradizionale alla milanese, chiamiamolo così. Ma noi cerchiamo di non avere consumatori ma di avere clienti. Questo non mi piace ridere il consumo, ma tendenzialmente devo dire che la nostra clientela apprezza e legge la tradizione all'interno di questi contesti, di queste preparazioni, dove il sapore viene comunque veicolato attraverso magari una nuova formula che è molto più leggera, ma comunque viene contestualizzato un elemento storico, per cui c'è assolutamente un ritrovarsi, l'aspetto è esattamente coincidente. Fino a 2 anni fa servivamo entrambe le preparazioni, poi per mia scelta estremista è stata proprio quella di imporre una filosofia che è quella nostra. Ecco, domani cucini tu o cucina tua moglie a casa? Cucino io con le bambine. Ah, bene, quindi fai partecipare. Dimmi solo un piatto che hai intenzione di preparare. Ma un bel musetto con un purè di marroni e un radicchio trevigiano alla rosa damascata. Beh, già c'è già qualcosa di innovativo questo purè di marroni. Grazie a Massimiliano Elamo, buon Natale a te e a tutta la famiglia. Grazie a voi, buona giornata e buona domenica. Bene, ora passiamo, abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato di Famolo Strano, andiamo a Milano dove sicuramente è nato il panettone e c'è ancora una tradizione molto forte. Andiamo alla pasticceria Martesana. Buongiorno a Davide Comaschi. Sì, buongiorno a voi e buon Natale in anticipo. Grazie a Davide Comaschi. Comaschi, c'è ancora a Milano la richiesta del panettone tradizionale oppure anche a Milano si fa strano? Ma diciamo che la maggior parte della richiesta comunque è sempre panettone tradizionale, anche se quest'anno, devo essere sincero, sta andando molto, molto alla richiesta del panettone con dentro i pezzi di marron glacé, che è un nostro pezzo forte, quindi sta andando bene quest'anno. Ma lei fa altre tipologie di strano? Sì, noi facciamo vari tipi, tra cui anche l'ananas e pinoti, o il noce cioccolato, fichi cioccolato e altri tipi che non so quali incarti di tutti perché sono veramente certo. Tanti. Senta Comaschi, il panettone da 3 kg o da 2 kg, secondo lei rende di più per il fatto della lievitazione, diciamo, è migliore oppure così è una leggenda metropolitana? No, a livello di degustazione la pezzatura migliore rimane sempre il chilo, massimo il chilo e mezzo, come discorso di degustazione, mentre da vedere come a occhio così, comunque 3 kg, 5 kg sono sempre quei panettoni che fanno la loro scena in tavola, anche se è cotto bene tutto, comunque è buonissimo lo stesso. Ecco, è vero che è difficile trovare uvette di qualità in Italia, italiane? Sì, è vero, anzi quest'anno c'è molta difficoltà a trovare proprio quelle giuste, perché la raccolta australiana non è andata a buon fine, quindi c'è un'uvetta molto acida in giro. E quindi è incredibile che in questo paese, grande produttore di uva, siamo costretti a arrivare e prenderla dall'Australia. Comunque grazie Comaschi, buon Natale. Grazie, buon Natale. Buon Natale a tutti. Bene, buon Natale con il panettone milanese. Bene, ora andiamo a Castelbuono, in provincia di Palermo, da Johnny Sferruzza, della pasticceria Sferruzza. Buongiorno Johnny. Buongiorno. Johnny, mi dice quale panettone lei produce? So che lei produce i pistacchi di Bronte, immagino. Sì, noi usiamo il pistacchio di Bronte, abbiamo una produzione limitata di panettoni, produciamo 120 pezzi al giorno, è un panettone artigianalissimo. Usiamo esclusivamente dei prodotti siciliani, pandorle siciliane, il pistacchio di Bronte appunto. Facciamo anche una crema di pistacchio, abbiamo anche il panettone con crema di pistacchio. Molto buono, sta andando molto bene quest'anno. Abbiamo questa produzione. Senta, Johnny, voi producete anche il panettone tradizionale, quello cosiddetto alla milanese, o solo panettoni appunto con prodotti del vostro territorio? Produciamo qualsiasi, sì, abbiamo anche il tradizionale con uvetta e canditi, solo uvetta, al cioccolato, poi abbiamo anche delle specialità come il pistacchio amarena, il fruttato. In questi giorni abbiamo fatto un nuovo gusto che sarebbe il cioccolato e arancia, appunto, che questa combinazione è molto buona. Ecco. Poi anche abbiamo un'altra novità che sarebbe il mele e cannella. Vabbè, quindi una varietà enorme. Senta Johnny, qual è quello preferito dai suoi clienti? Ma quello che sta andando forte quest'anno è proprio quello con salsa al pistacchio di Bronte, che sarebbe il classico pandorato con salsa di pieno al salsa di pistacchio. E lei quale preferisce, Johnny? Ma a me piace molto il mele e cannella, che dà proprio dei gusti particolari con questa mela candita e questa cannella proprio macinata fresca giornalmente. Lei quindi domani mangerà questo panettone a tavola? Sì. Ma mi dica un piatto che mangerà domani per Natale, al pranzo di Natale. Ma possiamo, un altro piatto molto buono anche che abbiamo provato quest'anno è il classico, il pandoro con una buonissima crema chantilly, accompagnato da una crema chantilly e magari anche da un bellissimo bicchiere di prosecco o di una grappa. Ma anche il zibibbo, dato che siamo in Sicilia, parliamo del zibibbo, che ci sta molto bene. Va bene Johnny, io la ringrazio, le auguro buon Natale. Bene, Johnny invece di mangiare un piatto magari di pasta preferisce continuare con il suo panettone. Bene, mi sembra anche chiaro, è un pasticcere. Liena alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Buon Natale ancora, cari radioascoltatori. Buon Natale con un grande panettone, un ottimo panettone. Bene, io sono molto tentato. Qui un panettone tradizionale con le uvette, la frutta candita di 2 chili, e ho vicino anche un panettone di quelli che io chiamo famolo strano, cioè quelli che dentro ci sono altre cose. Dicevo, ho detto prima, lo vedremo con le olive, lo vedremo con l'equerizia, lo vedremo con lo zafferano, insomma con tantissimi prodotti che un tempo così non erano molto comuni. Poi probabilmente in molti territori sono prodotti del territorio e si fa un panettone che è molto territoriale. Bene, io noto, appartengo al partito del panettone tradizionale, l'ho sempre detto, continuo a dirlo, però ammetto che in questi ultimi anni, diciamo, il famolo strano sta prendendo corpo e, come abbiamo già sentito, in molte pasticcerie c'è una grande richiesta appunto di questi panettoni particolari. Ebbene, diciamo, mancano poche ore al pranzo di Natale, non voglio assolutamente suggestionarvi con il panettone tradizionale, magari provateli tutte e due, potrebbe essere anche, così come posso dire, una gara. Ma ora voglio sentire il parere di un personaggio che non ha mai peli sulla lingua ed è un grande pasticcere. Buongiorno Eginio Massari. Buongiorno a tutti voi. Già, buon Natale. Cominciamo con anche un buon Natale, che mi sembra molto giusto. Massari, come si spiega in questi ultimi anni questa corsa a farlo più strano possibile, il panettone? Ma io penso che sia giusto che la gente provi, ma più che provare sulla gente dovrebbero provare su se stesso chi lo produce. Fare ricerca parte della curiosità e delle esperienze degli uomini, però ne ho fatte tantissime anch'io di queste esperienze, e valutando quello che c'è sul mercato ho deciso che i nostri nonni avevano avuto un'intuizione geniale con gli abbinamenti di questi frutti canditi, perché al di là di quello che è la roba, Questa frutta dà la conservazione al prodotto, la morbidezza e la fragranza nel tempo, mentre gli altri vedo che hanno la tendenza a far asciugare tutti questi prodotti. È come quando si chiede un panettone senza canditi, vuol dire che quel panettone avrà una vita brevissima perché gli manca la parte tecnologica all'interno dell'impasto. Bene, rimanga con noi, perché ora andiamo a Grottaglie, andiamo da Emanuele Lenti della pregiata forneria. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a tutti. Bene Emanuele, tu quest'anno veramente sei uscito sul mercato con una cosa molto sorprendente, perché io voglio specificare, Lenti fa un eccellente panettone tradizionale, quindi non è che sia così, sia entrato sul mercato con un qualcosa di famolo strano. Lui aveva già, come posso dire, un suo mercato con questo suo panettone tradizionale, ma è entrato con il pandolivotto. Cos'è il pandolivotto? Ora ce lo spiega Lenti. Sì, diciamo che appena mi è stato presentato queste olive, il cervello è andato subito al tuo slogan famolo strano, perché io non immaginavo il risultato che doveva nascere. In effetti già dalle prime prove che sono state fatte si è rivelato un successo. Già i primi gustatori, quando lo hanno assaggiato, sono rimasti, io stesso sono rimasto senza parole, perché non immaginavo, cioè quando mi hanno detto proviamo a fare un panettone con le olive, no, ho detto io, come soprattutto con le olive celline della nostra zona, del nostro territorio, siccome sono sempre in prima linea quando dobbiamo fare delle prove del nostro territorio, mi sono cimentato, mi sono buttato. Ma devo dire una cosa, che quando ho saputo questa cosa e l'ente mi ha spedito questo panettone, io ero molto, come posso dire, molto scettico. Esatto, pure io. Ero molto scettico, però dopo averlo assaggiato, devo dire che è un panettone molto particolare, chiamiamolo un dolce molto particolare, però un dolce molto ma molto piacevole. Quindi sicuramente è un esperimento riuscito, chiamiamolo come vogliamo, se è un dolce particolare non possiamo chiamarlo panettone. Insomma, certo, ci sono tutta una serie di differenze. Però io voglio chiedere, rimani con noi lenti, a Massari. Massari, per chiamarlo panettone ci sono delle regole ben precise, credo. Sono delle regole che sono state codificate in realtà senza certi prodotti, certa quantità di prodotto non si può chiamare. Bisognerebbe vedere a fondo quanto prodotto rimane in sospensione nella percentuale che dovrebbe essere esattamente come il tradizionale nel minimo consentito. Ecco, quindi appunto, infatti l'ente lo ha chiamato pandolivotto. E Emanuele, voglio chiederti, c'è stata molto richiesta di questo panettone una volta che la gente l'ha assaggiato? Ma di richieste attualmente, cioè, abbiamo chiuso in anticipo le vendite perché tutti gli ordini che avevamo non riuscivamo a coprire tutte, quindi una settimana prima sono state chiuse le vendite. Ho capito. E gli ordini, perché se no non riuscivamo a coprire, ma ripeto, è stata una sorpresa pure per noi e devo dire che ci ha trovati impreparati, perché ci ha un po' stiancati nello stare dietro alle richieste. Però io, scusami Davide, io voglio riallacciarmi all'amico Massari Gino per quanto riguarda il discorso. È giusto il discorso che diventa secco se non ci sono i canditi, pure noi avevamo questa paura. Però ci siamo accorti, ma poi lo potremo vedere in futuro assieme con lui perché ci conosciamo, ci siamo accorti che questo olivotto con la crema di olive che noi mettiamo dentro si comporta l'esatto contrario di un panettone classico, nel senso, di solito il panettone classico dopo 30 giorni, parliamo un panettone classico puro senza nessun intervento dentro, monodigliceti, grassi, eccetera, si comporta l'esatto contrario, nel senso che apposta di asciugarsi si inumidisce ancora di più. Dalle analisi frettolose che sono state fatte, ma andremo in fondo, risulta che siano le acque libere, le acque vegetali delle olive che vanno a ammorbidire ancora di più, che non si riescono a togliere. Vanno a ammorbidire ancora di più il prodotto. Bene, questo poi ve lo vedrete voi, questo discorso tecnico. Io voglio tornare a Massari, voglio chiedere, ha parlato di 30 giorni, Massari, quanto può durare un panettone tradizionale fatto come Dio comanda? Beh, anche a 24 mesi, però per l'artigiano è una roba assurda dare una conservazione del genere. Io consiglio di dare 30 giorni per mantenere la fragranza iniziale. Ecco, un'ultima cosa, Massari, lei è un po' il punto di riferimento anche di molti pasticceri. Volevo chiedere, quest'anno le vendite del panettone, sì, siamo alla vigilia, magari molta gente correrà oggi a prendere il panettone, però più o meno si vede già l'andamento, è sempre in crescita come prodotto di vendita? Per quello che mi riguarda sì, le posso dire che c'è un trend abbastanza forte. Ho fatto tre tipologie, ma vedo che la gente, il 90% compra sempre il tradizionale. Ho fatto un panettone che ritengo al cioccolato stupendo, e abbinato con della frutta candita, perché sennò non si mantiene la freschezza, e ciò che mi stupisce è che le percentuali, benché questo panettone è il simbolo un po' del pane e cioccolato, va, ma non c'è quell'entusiasmo come quando si avvicinano al tradizionale. Bene, grazie Gino Massari e Emanuele Lenti, grazie e buon Natale a tutte e due, buona vendita di panettone. Grazie. Beh, Bene, ora andiamo in Abruzzo, andiamo a Pescara, andiamo alla pasticceria Caprice, che abbiamo sentito anche recentemente per un altro dolce. Perché da Fabrizio Camplone? Perché lui fa un panettone che è veramente l'espressione del territorio, nel senso che è alla liquirizia di Atri e allo zafferano di Navelli. Buongiorno Camplone. Buongiorno a voi. Lei da quanti anni fa questo panettone così territoriale? Ma guarda, diciamo che ho cominciato tre anni fa, quando ho iniziato a fare questo, il primo panettone che ho fatto diverso è questo panettone con la liquirizia di Atri, lo zafferano aquilano, e l'ho presentato a una manifestazione a Milano, il Re Panettone. Ha avuto un grosso successo e da allora, diciamo, ho sviluppato sempre più il discorso di fare dei prodotti legati al territorio. Fa altri tipi di panettone, quindi, oltre a liquirizia? A parte il classico, diciamo, la milanese. Però ecco, diciamo, dalla base del classico ho iniziato a fare il panettone con le amarene delle colline teatine. Quello abbiamo le amarene famose qui a San Giuliano Teatino. Poi abbiamo iniziato a fare anche il panettone, l'ultima novità che abbiamo fatto, il panettone con le patate del Fucino. Addirittura? Prendendo una vecchia tradizione delle pagnotte da forno di Sant'Agata che si fa in Abruzzo. Allora, rivedendo un po' le ricette di questo pane da forno che veniva fatto una piccola elaborazione sul panettone. Viene fuori un prodotto che mantiene una morbidezza incredibile, poi abbinato con dei frutti di bosco e dell'anice, veramente dei sapori di una volta, dei sapori antichi che si respirava una volta. Ecco, come reagisce, diciamo, il suo pubblico? Cioè, chiede ancora panettone tradizionale oppure questa diversità è accettata molto volentieri? Come diceva Iginio, sicuramente il panettone tradizionale è il più acquistato. Però soprattutto quando devono fare le confezioni regalo da mandare fuori, da spedire, vanno molto su questi prodotti del territorio, quindi il liquirizia e zafferano, il pane dolce, questo pane con le patate, quelle con le amarene, sono tutti dolci che preferiscono i clienti mandare fuori regione. Senta Camplone, lei domani quale panettone metterà sul suo tavolo? Sicuramente questo con le patate e frutti di bosco. Ah, bene, quindi le piace molto, anche perché è qualcosa di completamente diverso. Patate del Fucino e frutti di bosco, quindi questo è il grande famolo strano della pasticceria Caprice di Pescara. Grazie a Fabrizio Camplone, linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Chi ci ha seguito e sta per andare a comprare il panettone per metterlo sul tavolo domani o magari anche l'ultimo dell'anno sarà veramente un po' sconvolto, perché abbiamo sentito dei panettoni davvero famolo strano, nel senso di quest'ultimo fatto dalla pasticceria Caprice di Pescara, patate del Fucino e frutti di bosco, me ne abbiamo sentiti molti altri, abbiamo sentito quello con le amarene, abbiamo sentito albicocche e zenzero, abbiamo sentito liquirizia e zafferano, insomma pare che il panettone stia diventando veramente un qualcosa di molto locale, nel senso che da milanese che era e che da milanese che resta, perché tutti fanno la base è sempre quella, ma anche tutti affiancano al panettone strano in giro per l'Italia un panettone molto, diciamo, molto diverso. Quindi abbiamo due mondi della tradizione e il mondo dell'innovazione. Si sta riproponendo quello che è avvenuto nella cucina, che è avvenuto nei vini, insomma i gusti diciamo che si stanno ripetendo su molti settori, a cominciare appunto dalla pasticceria. Forse in passato non era stato così, in passato si trovava solamente il panettone tradizionale localizzato in alcune aree, soprattutto quelle milanesi. E allora noi ora andiamo vicino a Milano, andiamo a Concorezzo perché a Concorezzo c'è uno dei grandi della pasticceria italiana e un grande maestro del lievito madre. Buongiorno ad Achille Zoia. Buongiorno dottore. Allora Achille, lei un famolo strano l'aveva già fatto, perché c'ha un suo panettone molto particolare che io adoro, vero? Sì, panettone paradiso. Ecco, Lei quanti anni fa lo ha fatto questo panettone? 30 anni fa. Quindi lei aveva già capito il mercato, che, cioè, che si stava abbastanza diversificando anche. Era stata soprattutto un'esigenza, perché il panettone tradizionale lo facciamo tuttora, cerchiamo sempre di migliorarlo, che rimane poi quello che è sulla tavola soprattutto del lombardo e del milanese, vogliono vedere il giorno di Natale, però vedevo che l'esigenza era proprio quella di uscire un po' dello schema, perché somigliava troppo. Uno lo poteva fare buono come voleva, ma la quantità di frutta candita all'interno del prodotto, poi allora la pasta non era così ricca, così diversificata come oggi, e si somigliavano un po' troppo. E praticamente quelli che vendevano a basso prezzo, allora c'erano le famose ditte Besana, Frontini, Pellenghi, ce n'era che vendevano. Io avevo davanti un salumiere che me ne vendeva 20 volte più di me, abbiamo capito che dovevo fare qualcosa di diverso. Senta, ma il panettone Paradiso, ce lo racconti un po' questo panettone veramente molto piacevole? Beh, no, niente, avevo notato che intanto la pasta, in confronto alle industrie, noi artigiani perdevamo dei colpi, eravamo molto indietro, cioè l'industria già avanzava a passi di gigante, e allora, dato che io sono sempre stato un tecnico dolciario dalla Star a altre grandi industrie, avevo in mente come si fanno a fare le prove, ho cominciato a provare a farlo più ricco questo panettone, fino a quando siamo arrivati all'eccesso poi di 8 etti di burro e 7 etti tra zucchero e miele ogni chilo di farina, e da lì poi, facendo io anche un po' il divulgatore, ho portato un po' in giro per l'Italia questo nuovo sistema, proprio per agevolare i nostri colleghi artigiani perlomeno a cercare di contrastare un po' l'industria. Difatti abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni, siamo in continua espansione. Ecco, volevo chiederle cosa ne pensa lei della sostituzione del burro con l'olio d'oliva. Volevo ricordare comunque che, diciamo, il primo che ha cominciato a mettere sul mercato panettoni all'olio d'oliva extravergine è stata questa pasticceria Filippi di Zanè, che in passato abbiamo sentito molte volte, e voglio ricordarlo anche in questa trasmissione, perché diciamo che è stato, come posso dire, il precursore. Vedo che questa via dell'olio è stata seguita da molti sta per essere seguita da molti pasticceri, forse anche perché molte allergie, molte intolleranze al burro e al lattosio sono emerse molto evidenti negli ultimi anni. Ecco, lei cosa ne pensa dell'introduzione dell'olio d'oliva in luogo del burro? L'olio d'oliva non ha controindicazioni, basta dosare bene l'olio, che sia un sapore che non disturbi, e poi i nostri giudici sono sempre i nostri clienti, perché praticamente dopo possiamo inventare tutto quello che vogliamo, ma se il cliente ci dice di no, in effetti il cliente gradisce, perciò vedo che i miei colleghi che lo fanno hanno dei grossi risultati, perciò per adesso. Bene, rimanga con noi, perché ora facciamo un saltone, andiamo a Sant'Egidio del Monte Albino, provincia di Salerno, andiamo da Alfonso Pepe. Buongiorno Alfonso. Buongiorno Paolo. E devo dire che Alfonso è diventato un po', come posso dire, uno degli emblemi del panettone al sud, perché da molti anni fa un ottimo panettone che viene riconosciuto anche da tutti gli esperti. Allora volevo chiedere, Alfonso, ma oltre il panettone tradizionale che tu fai molto buono, ci sono dei panettoni molto particolari che tu fai? So quello al limoncello, ad esempio, vero? Sì, noi comunque cerchiamo di usare ingredienti del nostro territorio, tra cui il limoncello, gli agrumi, le arance, le albicocche, i fichi del Cilento, e quest'anno abbiamo inserito anche le albicocche del Vesuvio, la famosa albicocca Pellecchiella. Ah, quindi c'è un'albicocca sul Vesuvio, interessante, l'albicocca del Vesuvio. Quindi in questi giorni con la neve probabilmente le albicocche sono già state cotte. Le albicocche le abbiamo prese il mese di giugno e le abbiamo fatte candire noi. Perché altrimenti ora c'è neve oggi? Sul Vesuvio sì. Ah, bene. Senti Alfonso, la richiesta dei clienti, e soprattutto verso questi panettoni molto particolari, quelli che io chiamo famolo strano, nel senso di diversi dal panettone tradizionale, o il tradizionale anche al sud nella vostra regione ha sempre il suo pubblico? Allora, il panettone che va moltissimo è sempre il tradizionale, che poi si aggiunge quello al limoncello con le albicocche o ai fichi, però il panettone più consumato è sempre quello tradizionale. Quindi proprio perché usiamo comunque dei canditi, delle ovette molto buone, sempre selezionate di ottima qualità, facendo sempre la cosa diversa dell'industria, perché l'industria purtroppo sappiamo cosa utilizzano, per abbassare i prezzi utilizzano dei canditi che non si possono mangiare e tutto, e noi cerchiamo di fare il contrario. Senti Alfonso, quanto un chilo di panettone tradizionale tu lo vendi a quanto? Noi in pasticcino vendiamo a 26 euro. Ho capito, poi dopo sentiremo anche il nostro amico Zoia. Volevo chiederti un'altra cosa. Sì, volevo chiederti un'altra cosa, frutta candita e uvette. Ma mi risulta che le uvette in Italia, quelle diciamo non trattate, siano impossibili, non si trovano, e anche che in Australia quest'anno la raccolta sia andata molto male. Quindi da dove arrivano le uvette? Quest'anno purtroppo hai ragione, perché quest'anno l'Australia non è arrivata in Italia e ci siamo adattati con quella turca, abbiamo cercato una buona uva turca e il risultato comunque è ottimo. Senti, invece la frutta candita? La frutta candita sono le arance della Sicilia e il cedro, lo sappiamo, l'unica zona è quella, sempre fatta da produttori nostri locali. Ho capito. Rimani con noi, torniamo da Zoia. Volevo chiedere a Zoia, appunto, anche a lui il discorso delle uvette. Ma è possibile, Achille, che in un paese che produce tanta uva zibibbo anche in Sicilia e nelle isole, non ci siano le uvette per fare i panettoni? Penso che prendano di più a fare il vino passito. Lei dice, eh? Sì, cioè loro sono specializzati comunque per non... La frutta, l'uvetta turca è buonissima, adesso lasciamo stare, io ho sempre consumato la turca anche selezionandola in confronto all'australiana, è molto profumata, è bella, bionda, ha un sapore eccezionale, adesso non c'è più neanche la paraffina dentro, mentre una volta era piena di paraffina, bisognava stare attenti come usarla, oggi se uno ha la propria fornitura da tanti anni, ha un'uvetta eccezionale, la paga, chiaramente come noi facciamo pagare il nostro prodotto, siamo costretti giustamente a pagare le materie prime selezionate, prendiamo, come diceva Beppe, la frutta candita più buona che c'è sul mercato, la gente non la sputa più, non tira più fuori la frutta candita come una volta, perché era cattivissima. Oggi abbiamo della frutta candita che lei conosce molto bene, poi che le assaggia tutti i panettoni. Ecco, no, volevo chiederle, appunto, abbiamo parlato di prezzo al chilo, quanto tempo ci vuole a produrre ore lavoro un panettone? Beh, partendo da un lievito madre già pronto, perché se partiamo dall'inizio del lievito madre non si sa se ci vogliono 3 settimane o cose del genere, però avendo il lievito madre pronto, come lei ha scritto anche su Sole 24 Ore, la ringrazio, parlando del nostro collega Teresio, ognuno di noi ha il lievito che è da 40 anni, pur sapendo che il lievito è un pezzo unico e irripetibile, ogni seconda volta che si fa il lievito già cambia, non è più lo stesso per la questione enzimatica e microclimatica. Però per fare un panettone ci vogliono 3 giorni. 3 giorni, quindi sicuramente se uno va a fare i calcoli su ore lavoro, costo lavoro, alla fine si renderà conto. Ma tutto lì, la differenza del prezzo con l'industria è proprio quello, il sistema produttivo. Cioè io non posso produrre più di 180 kg al giorno, 190 kg al giorno, e sto lì giorno e notte per 3 giorni consecutivi, tutta la famiglia impegnata. Bene Achille, io la ringrazio, ma le voglio chiedere un'ultima cosa. Lei domani sul pranzo di Natale quale panettone si porterà a tavola? Il paradiso o il tradizionale? La guerra in famiglia, io paradiso, mia moglie è tradizionale. Ah bene, quindi lotta in famiglia. Alfonso Pepe, anche a te c'è lotta in famiglia per cosa si mangerà domani, quale panettone? Purtroppo sì, perché ho i miei bimbi che piace quello al cioccolato, noi lo facciamo particolare con il cioccolato al latte invece di quello fondente, proprio adatto più per i bambini, ecco. Però a me è il classico che piace. Ecco, è veramente credo significativo che tutti, diciamo, i pasticceri che ho sentito, la preferenza vada al tradizionale, cioè ovviamente producono perché il mercato richiede ed è giusto, però quando devono mangiare loro stessi il panettone mangiano quello tradizionale, forse perché, lo chiedo prima a Alfonso Pepe e poi a Zoia, forse perché la qualità si sente su quello tradizionale? Allora io le dico, a me i canditi non piacevano, io da piccolino quando andavo in laboratorio a fare l'apprendista, io i canditi non li mangiavo mai perché non piacevano. Adesso vi dico che li mangio dalla scatola e insieme al panettone è una favola. Bene, allora lo chiedo a Zoia. Zoia, ma la qualità si sente dal panettone tradizionale? Beh, io dico di no, io dico che il panettone con meno frutta dentro più si distingue, la pasta, però chiaramente è soggettivo il discorso, eh. è molto soggettivo, perché chiaramente lei sta parlando con uno come Pepe, che è un re oramai del lievito naturale, che è quello che dà il segreto del panettone buono. Poi gli additivi, le materie prime sono importanti, però se Pepe non fosse capace di fare il lievito come è capace di farlo il suo panettone non sarebbe così buono. Quindi... Io mangio il paradiso, perché chiaramente io mangio il paradiso, mia moglie mangia il tradizionale. Bene, certo. Bene, grazie Alfonso Pepe, Achille Zoia, e tanti auguri di buon Natale e buon panettone, quindi. Grazie. Bene, passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a poche ore dal pranzo di Natale, dal Natale, a parlare di panettone. La battuta, c'è una battuta che gira sempre, specialmente per gli allenatori di calcio. Si dice che non mangeranno il panettone, quindi quando diciamo siamo un po' lontani dal Natale, beh, c'è stato anche qualcuno che si è presentato in conferenza stampa con il panettone dicendo: bene, io mangerò ancora il panettone. In realtà poche ore dopo è stato esonerato. Il panettone è sempre ormai al centro dell'attenzione, non solo sotto Natale o l'ultimo dell'anno, ma anche durante l'anno, appunto per queste battute. Tutte riferite spesso agli allenatori di calcio, quindi tutta pubblicità per i produttori di panettone. È così, Massimo Vitali? Sì, assolutamente sì, la pubblicità è fondamentale. Io ne ho fatto poi uno dei miei piccoli cavalli di battaglia. Fra l'altro ho vissuto la vigilia del Natale, a dire il vero, agli inizi del mese, a fare promozione in giro presso clienti, presso negozianti che mi davano spazi appositi appunto per far assaggiare anche ai più increduli, diciamo, com'è, ecco, il vero panettone artigianale. Ecco, veniamo un po' al panettone tradizionale e a quello che io definisco famolo strano. Lei fa dei panettoni molto particolari, bene, d'estate fa il panfrutto, ma in questo periodo quali sono i panettoni al di là di quello tradizionale che lei produce? Beh, guardi Paolini, appunto per il fatto che, appunto per il motivo che produco grandi lievitati tutto l'anno e molto diversi uni dagli altri, nel periodo natalizio diciamo faccio un po' il contrario di diversi colleghi, ovvero propongo il panettone classico, praticamente uvette canditi e una versione al cioccolato, diciamo per accontentare quelli che non amano l'uvetta. Fa specie il prodotto, il panettone che produco per un negozietto di Savignano sul Rubicone che mi fornisce di tutte le materie prime, si chiama da Silvano, e appunto per loro faccio questo panettone con uvetta di Zibibbo, mettiamo del burro Celli, miele bio, insomma tutte le materie prime estremamente selezionate rigorosamente dal territorio italiano. Quindi lei fa panettone su misura, questo? Questo cliente particolarmente sì. Tailor made, perché? Cosa c'ha questo cliente di particolare? Cioè ha dei clienti, questo cliente molto particolari che gli richiedono questo panettone? Esattamente, diciamo che ha puntato sempre molto sulla qualità delle materie prime, dei prodotti che commercia, e appunto ha ricercato insieme a me un panettone ad hoc da offrire, da poter vendere insomma ai propri clienti, appunto con tutte queste materie prime estremamente selezionate. Senta, ma da Silvano cosa vende oltre il panettone? Perché a questo punto mi incuriosisce molto. No, prevalentemente grandi lievitati, diciamo che abbiamo dei rapporti quindi scaglionati durante l'anno, è un altro di quelli che ha creduto appunto nel panettone estivo. E per Natale insomma gli faccio questi prodotti qua. Bene, Vitali, volevo chiederle questo. Lei, diciamo, io ho chiesto a molti suoi colleghi quanto tempo impiegano per fare un panettone tradizionale, cioè di lavoro, quanto lavoro ci vuole per fare, per appunto, per ottenere un ottimo panettone? Non meno di 36 ore, considerando che naturalmente si deve avere un lievito madre di almeno un mese di vita. Il mio ha più di 5 anni, però... Bene, 36 ore diciamo dall'inizio alla fine proprio della produzione. Ecco, il panettone tradizionale da lei quanto costa al chilo? Allora, io presso il mio punto vendita lo vendo a 20-22. Ho capito. Diciamo che sono nella periferia della periferia, per cui insomma non riesco naturalmente a permettermi i prezzi dei centri città, però la cifra è quella. Bene, e ora andiamo, rimanga con noi Vitali, perché ora facciamo un viaggio piuttosto lungo, andiamo a Patù, in provincia di Lecce, andiamo alla pasticceria Picci. Buongiorno ad Antonio Picci. Buongiorno. buongiorno. Senta Picci, mi spiega come mai, cioè, in Puglia si trovano tantissimi pasticceri che fanno panettone? Cos'è successo? C'è qualcosa di particolare? Perché non solo lei, ma ce ne sono altri che fanno ottimi panettoni e sono balzati anche alla ribalta. C'è qualcosa di, cos'è, di diretto con Milano, con la pasticceria milanese? Oppure diciamo, no, che è la lievitazione? Il discorso, vabbè, a parte la lievitazione, il panettone artigianale, però noi per esempio abbiamo parecchi clienti di Milano, di su, perché c'hanno qua nella nostra zona le case, le ville a mare. Ah, ecco, quindi noi li spediamo su, li spediamo. Ho capito, quindi sono diciamo i vostri conterranei che sono arrivati a Milano e poi tornano per le vacanze e quindi No, ci sono proprio anche milanesi, signori di Milano che hanno la villa a mare, la Marina o all'Euga, che sono nostri clienti estivi e poi hanno assaggiato il nostro panettone piccolo artigianale, sempre con tutto il lavoro che c'è dietro, ci vuole almeno 3 giorni per finirlo tutto, e lo spediamo e vengono la nostra, il lavoro nostro è questo. Ecco, cioè, Antonio, ci spiega com'è il suo panettone, perché lei fa un panettone particolare con fichi e noci o fa anche quello tradizionale? Che facciamo anche tradizionale, ma ormai il milanese noi non lo facciamo più quello con l'uvetta, ma facciamo il fichi e noci, fichi e noci cioccolato, che so, ci hanno chiesto un panettone con tutti i gusti, lo chiamiamo cocktail, con le amarene, con i canditi, con il marron glacé, con i fichi, con i noci, con le mandorle. Qualcuno ci ha chiesto il panettone solo con i fichi, perché noi poi non è che abbiamo una grande produzione, io e mia moglie ne facciamo 16 al giorno. Ho capito, quindi sicuramente una piccola pasticceria è un piccolo paese. Senta, è interessante questo, perché cioè, diciamo che si vede proprio che l'Italia migliore ormai è in provincia e nei piccoli borghi, dove ancora si può fare veramente della produzione artigianale vera. Molti che chiedono il gusto, che come questo signore che ci ha chiesto solo i fichi, che solo noi artigiani, i pasticceri che fanno, però possono fare, no? Ecco, con ma lei, piccola produzione. Ma se io le chiedo un panettone con i fichi, cioè lei ne fa uno, no? No, noi ne facciamo 8. Ho capito. Ma comunque lo vendo, perché nel negozio non c'ho più un panettone. Stiamo facendo oggi e domani gli ultimi, ma sono già tutti venduti. Ecco, dopo Natale, dopo domani l'altro, lei continuerà a fare panettoni oppure si ferma la sua produzione? No, facciamo delle cassettine da mezzo chilo con i gusti, i fichi, cioccolato, qualcuno che ce lo chiede, da mezzo chilo tipo colazione. E quest'estate l'abbiamo fatto anche col gelato, tipo uno trancio con dentro il gelato alla vaniglia o al pistacchio, perché questo Natale ci hanno chiesto dei panettoni fichi e noci col pistacchio di pronti dentro. Ecco, volevo chiederle questo, lei ha detto non facciamo più il panettone tradizionale, perché ormai la richiesta verso i suoi panettoni sono di questi particolari con la frutta dentro. Sì, quindi sì, la merene, c'è proprio il fichi e noci proprio. Ecco, e quello. Lei domani mangerà panettone fichi e noci o mangerà un panettone molto particolare che si è fatto, quello cocktail per esempio di frutta? Guarda, io preferisco fichi e noci per gusto mio, però. E sua moglie? Mia moglie le piace il cocktail. Vedi? Ma è la cosa divertente che ho chiesto a molti pasticceri, questo diciamo di chiedere cosa mangeranno, e c'è sempre il gusto diverso da moglie e marito. Rimanga con noi Picci, perché lo voglio chiedere anche a Vitali. Vitali, lei domani cosa mangerà? Assolutamente il panettone classico, uvetta e candite d'arancia. E sua moglie? Fortunatamente anche lei adora quel tipo lì, diciamo siamo molto classici, cioè degustando panettoni sui generis tutto l'anno, diciamo che Natale ce lo concediamo come da tradizione, insomma. Senta Picci, ma tu quanti abitanti fa? Sì, ci sono tutti, ma adesso non ci sono, saremmo 1.400, 1.600, adesso non ce ne sono nemmeno 1.000, perché tutti stanno fuori, chi lavora a Milano, a Roma, in Svizzera, siamo pochi. Lei è l'unica pasticceria? A Patù, quindi, sì. Qui a Patù è l'unica pasticceria, quindi diciamo che può sperimentare. Senta, mi dica un'altra specialità che non ho durante questo periodo di Natale che lei fa durante l'anno, c'è qualcosa di particolare? Cioè, ma di panettone? No, di altra pasticceria. Altra pasticceria, noi lavoriamo molto alla mandorla. Ah, la mandorla. Le pastine di mandorli, i dolcetti con mandorla, mandorla di mandorle baresi però. Ho capito. No, quelle altre che non hanno sapore. Cioè abbiamo la pastina di mandorla cotta, come si faceva una volta, e che va tantissimo, tanto. Picci, c'è un piatto tradizionale natalizio nel vostro territorio? Ecco qua. qua quando mi prendi, perché non lo so, perché io comunque sono nato fuori, diciamo, e sono poi trasferito a Patù perché i miei erano emigranti in Svizzera. Ah, ho capito. Questo lo sa mia moglie. Va bene, un'altra volta. Grazie Pici, buon Natale, buon Natale a lei. Buon Natale. Famiglia. Sì. Torniamo a Vitali. Vitali, volevo chiederle questo. Beh, nella sua zona, che poi anche la mia zona, cioè lei cosa mangerà il giorno di Natale domani? Assolutamente cappelletti in brodo. Ah, cappelletti in brodo, poi anche il bollito. Sì, beh, è chiaro, quello come seconda portata. Ho capito, quindi rimane proprio nella tradizione più vera. Bene, grazie a Massimo Vitali, grazie tanti auguri, tanti auguri di buon Natale. Come vi dicevo all'inizio, Radio 24 ha in serbo un regalo per uno di voi. Si tratta di un cofanetto Smart Box Brunch in città, per sperimentare pietanze dolci e salate in uno dei locali selezionati della vostra città. Si aggiudica, attenzione, questo cofanetto il primo ascoltatore che invierà da adesso un SMS con scritto Smart Box al nostro numero 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Quindi diciamo, questo chi vincerà è un buon Natale, perché farà un brunch sicuramente, magari se capita in una città importante, con un brunch davvero molto interessante e molto gustoso. Bene, io sono arrivato al congedo poche ore dal pranzo di Natale, e non mi rimane innanzitutto che farvi tantissimi auguri e anche dirvi che dopo tutto questo giro di trasmissione io rimango della mia opinione. Si producono tanti buoni panettoni Famolo Strano, ma il mio sarà un panettone tradizionale da 3 kg da mangiare rigorosamente con le mani. Lo ripeto, rigorosamente con le mani, perché è il modo migliore per gustarlo e poi veramente trangugiarlo proprio da golosi, da grandi golosi. E poi magari ci si può bere quello che volete, un moscato dolce, una malvasia dolce, quello che volete. Ma innanzitutto panettone grande e soprattutto con le mani. Buon Natale da Davide Paolini. Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Vi ha presentato Il Gastronauta.